Gesù è in ogni cosa, Gesù è in ogni luogo, Gesù è dappertutto, Gesù ti vede, Gesù ti guarda, Gesù ti ascolta. Ho sempre pensato fossero solo modi di dire, poi ho deciso di fare uno spettacolo su Gesù e ho scoperto che invece è proprio così. Gesù è in ogni cosa, Gesù è in ogni luogo, Gesù è dappertutto, Gesù ti vede, Gesù ti guarda, Gesù ti ascolta. Mi sono accorta che vivo circondata, dove mi giro trovo Gesù, tatuato, dipinto, affrescato, scolpito, intarsiato, stampato, inculcato, messaggiato, taggato, twitterato, whatsappato, facebookato, linkato, sull'iPhone, sull'iPod, sull'iPad, in casa, in macchina, nel portafoglio, al collo, al cesso, a letto, al ristorante, all'ospedale, dal benzinaio, sui dollari, sui muri, sulle magliette, in bocca, in mano, in chiesa, in piedi, seduti, in piedi, seduti, in piedi, seduti, in ginocchio. Prendi la particola, non masticarla, non ciucciarla, non deglutirla. Questo è il corpo di Cristo, questo è il suo sangue. Scambiamoci un segno di pace, preghiamo insieme, preghiamo Lui, preghiamo la sua faccia, la sua icona, la sua croce, le sue parabole, i suoi Vangeli, suo padre, sua madre, il suo popolo, i suoi discepoli, i suoi seguaci, i suoi eredi, il suo corpo, le sue mani, i suoi piedi, la sua veste, le sue costole, le sue ossa, i suoi occhi, le sue lacrime, le sue spine, i suoi chiodi, le sue ferite, il suo pus, il suo cuore, le sue vene, il suo sangue, le sue arterie, le sue piastrine. Cia, cia, cia. Ah, cia, cia, cia. Flamenco. Ore, ore, ore. Miracolo nella cassetta della posta. Il dépliant dei testimoni di Geova, sul cruscotto della macchina, la pubblicità dell'asilo delle suore, sulla porta di casa, l'invito a partecipare al rosario, alla radio, prende solo Radio Maria, sul giornale, la recensione dell'ultimo film su Gesù, dell'ultimo libro su Gesù, dell'ultima mostra su Gesù, Francesco sulla copertina del Time, Gesù sulla copertina di Playboy, Jesus su quella del venerdì di Repubblica, Jesus è il nome del fidanzato di Madonna, Jesus è un paio di jeans, Jesus è una miniserie televisiva, Jesus gioca nell'Inter, Jesus tifa per Suor Cristina, Jesus è il migliore amico del grande Lebowski, Jesus è l'uomo più famoso del mondo, Jesus lo conoscono tutti, Jesus è di tutti, tutti per Jesus, Jesus per tutti. Tutto si colorava di Jesus. Entravo all'autogrill e mi sembrava di essere in Vaticano, tra Fabio Volo, Luciano Littizzetto e Antonella Clerici. Ciao, sono Francesco. Ero Bergoglio, sono Francesco, la vera vita di Francesco. Francesco, vita e rivoluzione, preghiamo con Francesco. Papa Francesco, il Papa si racconta. i racconti di Papa Francesco. Papa Francesco, la vita e le sfide. Il Vaticano secondo Francesco. I fioretti di Papa Francesco. Francesco, il Papa della gente. Papa Francesco fra religione e politica. Quel ragazzo d'oratorio diventato Papa Francesco. Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo. Dio ha fatto gol. Papa Francesco. Francesco, il Papa della speranza. La mia speranza si assottigliava ogni giorno di più. Questo spettacolo era diventato un incubo. Mentre lavoravo mi si spegneva il computer, mi saltava la luce, sentivo degli strani rumori. Ho iniziato ad avere paura, a credere fossero segni divini, moniti. Scherza coi fanti, ma la sa stare i santi. Ho iniziato a leggere i libri sulle apparizioni della Madonna, sui suoi messaggi. Sono stata a Civitavecchia, a Medjugorje, a Fatima. Ho dato vita a sedute spiritiche. Mi sono spinta fin sull'orlo di una setta satanica. Ho cominciato a seguire regolarmente tutti i tweet del Papa. Ho iniziato a pensare fosse una materia troppo vasta, troppo complessa. Ho iniziato ad avvertire un senso di inadeguatezza, di inferiorità. Ho toccato con mano la mia ignoranza. È stato a questo punto che ho deciso di gettare la spugna, di nascondere la testa sotto la sabbia. Stavo per deporre le armi quando si è aperto uno squarcio nel cielo. Luce abbagliante, luce allo stato puro, una folgorazione. Intorno alla vita, i so addominali del ferro, l'aureola e il sorriso da ebete. L'era lui, l'era torna sulla terra, proprio lui, Jesus, Gesù, Jesus. Non la mia sonà il campanel, non la mia bussà la porta, l'è passata al muro, non volea crederge. Pensavo il fusse un pazzo furioso, la schioccai di ei e dal cielo è cascato un rane. Le rane gli ha cominciato a parlarne. Gesù, è il sa che te vuol fare uno spettacolo su de lui. L'è felice. Gesù l'è sempre felice quando qualcuno il parla de lui. Se te parli de lui, te parli con lui. Par questo lui, ora l'è qua, par parlar con ti. La schioccai di ei un'altra volta e le rane, come ieri arrivè, iende via. Non mi interessa se non te si mia battezza, se non te mia fatto la comunione e la cresima, se non te si mia sposa. Non mi interessa se non te battezzai i tuoi fiori, se non te venni a messa, se non ti hai mai letto nella Bibbia, nei Vangeli, se non ti segni a volte farti il segno della croce, se non te confessi, se te masturbi, se te sia anticlericale, non mi interessa. Non te vorrei mia fare uno spettacolo su questo. Mino son mia la mecesa, son nomo, dime, sa te vol saper. Ero via de testa, gavea de novo paura dei lupi, tremavo, me son butta in senocio, ho cominciato a piangere, a urlare, a domandar perdono e pietà a lui, e il mal sa far. Dopo il m'ha dito che l'era venuto solo per lavorar con me, par scriver lo spettacolo insieme, a quattro mani, e m'ha fatto giurar che l'era un segreto tra noi altri due, e m'ha dito che sarei a piaciuto essere in locandina, però con un nome finto. Mi no che lo mia fata tenere il segreto, alla fine ho deciso di dirvelo, per due motivi. Uno, per non essere accusata de blasfemia o de eresia, quel che dirò l'avemo deciso insieme, l'è farina del nostro sacco, mio e di Gesù. Due, perché ve rendi conto che mi son qua a parlarve, ma in verità non parlo mia solo a nome mio. Quindi, stasi attenti ai vostri pensieri e ai vostri giudizi. Gesù el ve vede, Gesù el ve guarda, Gesù el ve ascolta. Flamenco, le sto cantando a tus ojos negros, a tu boca negra tan deliciosa. Le estoy cantando porque así me alegro, muchachita rebodita y salerosa. Mancano pochi giorni a Natale. Abbiamo fatto il presepe. Gesù deve ancora arrivare. Non è ancora nato. Ettore, 3 anni, custodisce il bambinello. Freme dalla voglia di sistemarlo al suo posto. Siamo a tavola. Ettore nota una stampa di Gesù adulto poggiata per terra. È un ovale, con ritratto un Cristo con aureola. Ettore la fissa a lungo. Poi chiede chi è. È Gesù, Ettore. Silenzio. Gli si accende una lampadina. Il computer comincia a girare, veloce. Poi si ferma, mi guarda, chiede. Ma questo è l'identico Gesù che deve ancora nascere? Sì, Ettore. Ma è sempre l'identico Gesù che dopo muore in croce? Sì, Ettore. Ma tutti i bambini nascono e dopo che sono appena nati diventano grandi e dopo muoiono? Sì, Ettore. Ma anche il mio fratellino muore? Sì, Ettore. Ma anche i cugini? Sì, Ettore. Ma anche la nonna Elsa? Sì, Ettore. Ma anche la nonna Franca? Sì, Ettore. Ma anche il nonno Renato? Sì, Ettore. Ma anche il nonno Lorenzo? Sì, Ettore. Ma anche gli zii? Sì, Ettore. Ma tutti muoiono, mamma? Sì, Ettore. Ma anche il papà? Sì, Ettore. Ma anche tu, mamma? Sì, Ettore. Ma perché, mamma? È così la vita. Ma perché è così, mamma? Perché si muore, mamma? Perché si vive, mamma? Perché si muore, mamma? Perché si vive, mamma? Perché si muore, mamma? Perché si vive, mamma? Ma tutti muoiono sulla croce, mamma. Ma perché una volta lo facevano? Ma perché Gesù era cattivo? Ma perché certi uomini pensavano che era cattivo? Aveva la faccia tesa, contratta, sconvolta. Aveva capito tutto. Avrei voluto mentire, dire di no, che non tutto finisce, che questo è solo un passaggio, un accidente, che la vita vera è altrove. Avrei voluto rassicurarlo, tranquillizzarlo, dirgli che un senso c'è, che Gesù ci accoglie, Gesù ci salva, Gesù ci vuole bene. Aveva collegato l'immagine di Gesù appena nato a quella di Gesù crocifisso, senza ragionare, senza pensare, fisicamente. L'aveva collegata a suo fratello di 7 mesi, il bambino più piccolo a lui vicino, poi alle persone a lui più care. Non ce l'ha fatta a chiedere se la stessa sorte toccherà anche a lui, ma era sottinteso, chiaro, palese. Ettore, a 3 anni, ha capito che dovrà morire. Si è chiesto che senso abbia vivere e l'ha chiesto anche a me. Era sera. Io a volte ho paura, soprattutto di sera, di notte, quando non c'è il sole a illuminare le cose. Quando non c'è il sole a illuminare le cose, ogni rumore è più forte e sinistro, ogni pensiero è più cupo, ogni minaccia è più grave. Cerco conforto, certezza, cerco un corpo da stringere, un corpo che mi avvolga, mi scaldi. Quando non c'è il sole a illuminare le cose, mi fermo. Ferme le mani, ferme le gambe, tutto si ferma. Dentro di me c'è solo silenzio. Intorno c'è solo silenzio. È in quel silenzio che abita la mia paura. Entro in punta di piedi e aspetto. Aspetto una risposta che non arriva. Non da mia madre, non da mio padre. È quando non c'è il sole a illuminare le cose che ho paura per mio figlio, che ho paura di morire, che immagino di svegliarmi chiuso in una bara, che sento un lupo che urla nella pancia. È quando non c'è il sole a illuminare le cose che vorrei avere una risposta, che vorrei sapere tutto quello che non so. Vorrei dirtelo con certezza, con calma e sicurezza, con l'autorevolezza del padre. Vorrei saperti dire da dove veniamo. Vorrei saperti dire qual è il giorno in cui si muore. Vorrei saperti dire perché da morti si sta sempre stesi. Non si mangia, non si corre e non si salta. Vorrei saperti dire quando si rinasce, se è vero che diventeremo vento. Vorrei saperti dire come si fa da morti a tornare a casa, se ci viene ancora voglia di giocare. Vorrei saperlo e non lo so. Allora ti racconto che veniamo dal mondo dei bambini. Ti racconto che quando moriremo ci spunteranno le ali, a noi, ai nostri animali, a tutti, anche agli elefanti, ai serpenti, alle giraffe. Ti racconto che andremo tutti in cielo e voleremo. Voleremo come nel mondo dei bambini. Ti ho visto un giorno, ti ho messo nella mia pancia. Ti racconto che per tutti ci sarà una torta di nuvole, di cielo e di pioggia. Ti rassicuro che non è oggi che si muore, che non è neanche domani. Non è al tuo compleanno, non è a Pasqua e non è a Natale, non è neanche a Capodanno. È tra tantissimo tempo, come una decina, come due mani più due mani più due mani più due mani più due mani, come prima dell'arca di Noè. Adesso possiamo anche non pensarci a quando sarà. Tanto sarà tra tantissimo tempo. Possiamo anche non pensarci, almeno fino a quando il sole è alto e illumina le cose. Hanno incontrato Gesù in mezzo alla strada. Voleva andare alla stazione, si era perso, non trovava la direzione. Gesù si sentiva male, voleva andare all'ospedale, ma non riusciva a trovare un'indicazione per arrivare. Aveva uno squarcio nella testa, non ricordava più niente, ma nel cuore lui sapeva, ma nel cuore lui sapeva. Io l'ho visto, trascinava il suo corpo tra la gente indifferente e il sangue che perdeva lasciava tracce sul marciapiede, dove milioni di scarpe annegavano battendo, schizzando, andandosene via. Mi sono coperta gli occhi, non volevo vedere, volevo pregare, non sapevo più, non sapevo più, non sapevo più, non sapevo più chi. Hanno trovato Gesù in metropolitana, era seduto in un vagone con in testa un'idea di rivoluzione, e hanno sparato a Gesù alla quarta fermata. È successo di tutto un caos che nemmeno nel cielo lassù ci hanno capito più niente. Aveva uno squarcio nella testa, non ricordava più niente, ma nel cuore lui sapeva, ma nel cuore lui sapeva. Io l'ho visto, trascinavano il corpo tra la gente indifferente e il sangue che perdeva lasciava tracce sul marciapiede, cavano battendo, schizzando, andandosene via. Mi sono coperta gli occhi, non volevo vedere, volevo pregare, non sapevo più, non sapevo più, non sapevo più, non sapevo più chi. Thank you. Agnello al forno con patate. Ingredienti: un agnello, 30 kg di patate novelle, un litro di vino bianco, una noce di burro, due fiocchi di farina, sale e olio quanto basta, odori a piacere. Difficoltà elevata. Tempo di preparazione 3 ore. Dosi per 12 persone. Procedimento: prendete un agnello, possibilmente morto, scuoiato e fatto a pezzi. Se volete ucciderlo con le vostre mani, fatelo. Seguite questi semplici consigli per uccidere. 1. Catturate l'animale senza metterlo in croce. 2. Senza fustigarlo. 3. Abbiate cura non vi siano ladroni in circolazione. Se la cattura dell'animale è stata difficile, se il trasporto al suo Golgota è stato una via crucis, se ha belato a lungo, se si è cagato addosso, pisciato addosso, vomitato addosso, concedete all'animale un tempo di riposo. Prima di morire ne ha diritto. Concedetegli una lavanda dei piedi. Chiedetegli se deve dire qualcosa a suo padre. Se dopo la cattura puzzate di bestia, siete sporchi di merda e sudati come maiali, lavatevi, cambiatevi e truccatevi. MasterChef vi vuole belli, profumati e col cappello da cuoco. Ora siete pronti per uccidere. Solo poche accortezze prima di procedere. Lavatevi le mani, legategli le zampe, piantategli i chiodi. Ora impugnate la pistola e sparate. Un colpo solo in mezzo agli occhi. Preparate ora una teglia grande con aglio, olio e rosmarino. Spalmate di burro la bestia con le mani. Fate rosolare l'agnello ogni 5 minuti. Rigiratelo di tanto in tanto. Abbiate cura che tutte le spine siano state rimosse, che i chiodi non fossero arrugginiti e che non vi siano grumi di sangue. Scegliete l'agnello migliore, il più grasso. Verificate che oltre che grasso sia anche ricco, molto ricco, ricco sfongato. Verificate insomma che sia l'agnello giusto, quello con la A maiuscola. Non è difficile capire se è davvero lui. Chiedete, vi mostri, i conti in banca dei suoi eredi, i possedimenti immobiliari dei suoi eredi, i portafogli dei suoi eredi, le foto dei suoi eredi. Sono vestiti di nero, di viola, di porpora, di bianco e poi di giallo, di rosso, d'arancione, di beige, di panna, d'oro e d'argento e di mirra. Sono ventri gonfi, sono tasche piene di zecchini, sono mani insozzate di sangue, sono poltrone sfondate da culi flaccidi, sono sperma versato dentro corpi innocenti e lasciato a imputridire senza nessuna possibilità di generare. Ora ne siete certi, è proprio lui, è l'agnello con la A maiuscola, è la bestia pregiata che renderà la vostra cena speciale, così speciale da essere l'ultima. Lasciate che il suo grasso coli e che la bestia spurghi, lasciate che all'esterno la carne diventi croccante, ma che all'interno rimanga tenera come quella di un bimbo. Prima di finire in forno, i suoi pezzi torneranno ad unirsi, il suo vello tornerà a coprirlo, alzerà il coperchio del sudario in cui macerava, salterà sul tavolo, belerà il suo verbo. Non spazientitevi, un buon cuoco sa che ogni ricetta ha bisogno del suo tempo. Offritegli piuttosto una tazza d'aceto, lo purificherà in profondità. E approfittate di questo tempo morto per disporre sulla tavola una dozzina di panini e per scaraffare del vino rosso. Sconsiglio il sangue di Giuda, che con l'agnello non si accompagna affatto. Prima di finire in forno, i suoi pezzi torneranno ad unirsi, il suo vello tornerà a coprirlo, salterà sul tavolo, belerà il suo verbo. Eredi, eredi carissimi, alzate la fiamma, sciogliete col mio grasso i vostri dogmi, lasciate che brucino, che colino, che si smaterializzino, bevetevi una birra ghiacciata, gelida. Bevete in una seconda, una terza, fino a perdere i sensi, a perdere il senso, a perdere il senno. Berrò con voi come se fosse una grande festa, un grande carnevale. Spogliatevi e danzate. Danzate tutta la notte come cani in calore, come maiali nel fango, come lupi assetati di sangue. Eredi, eredi carissimi, di me non resta che la polpa, il succo, la carne. Rimettete ogni cosa al suo posto, lavate la cucina, toglietevi grembiule e cappello. Mangiate ora, mangiate di gusto, ingozzatevi, lasciate da parte la maschera che vi siete messi, i discorsi che avete imparato a memoria, le vesti che vi siete cuciti, lasciate che sia l'istinto a decidere, l'acidia a vincere, il corpo a guidarvi, lasciate che l'avarizia vi comandi, che la gola vi guidi, che l'ira vi attraversi, lasciate che la lussuria vi contagi. Non smettete di bere e di mangiare, continuate a farlo, ingurgitate birra fino a deformare i vostri ventri, fino a far esplodere le vostre vesciche, fino a trasformare i vostri uccelli in idranti, incontinenti come quelli di un vecchio e di un bambino. Dimenticate il pudore, dimenticate la morale, dimenticate la vergogna. Non saprete più chi siete, dove state andando. Vagherete nel vuoto senza certezza di ieri e di domani. Come cani senza padrone, come agnelli senza pastore, come figli senza madre, come uomini. Eredi, eredi carissimi, il piatto ormai è vuoto, vuota la teglia. Di me non restano che ossa per cani. Buttatele, buttatevi in acqua, nudi o vestiti non importa. Vi troveranno lì che galleggiate, che boccheggiate, tenuti a galla dal gas che avete ingerito insieme alla birra. Sarà un panorama infernale. Acqua che ribolle, fumi che salgono al cielo. Segnali di fumo, fumate, non bianche, non nere, grigie, grigie come le vostre facce che stanno perdendo i contorni. Poco alla volta affonderete, rifiuti tossici da consegnare alle profondità del mare, perché li distrugga, li trituri, li logori, il liquame entrerà nella terra per ammorbarla e vincerla. Sarete il sale che corroderà ogni cosa, la sete che decreterà la fine di ogni essere vivente. Sarete la trappola da cui nessuno potrà scampare. Sarete la piaga che siete, invincibile e inarrestabile, ma non eterna. Dopo di voi non resterà che il deserto, il vuoto, il nulla, il cielo. Io sarò là, in cielo, da là per l'ultima volta griderò il mio sdegno. Questo è l'agnello di Dio che si divincola, che bela, guaisce, che corre, scalcia, scappa. Questo è l'agnello di Dio che ha messo le corna, ha abbassato la testa, ha preso la rincorsa. Questo è l'agnello di Dio che è uscito dal recinto. Questo è l'agnello di Dio finito in pentola, con le patate e il rosmarino, servito con vino che non è sangue, con pane che non è corpo, finito tra denti affilati di lupi assetati, che mangiano e bevono e bevono e mangiano e mangiano e bevono e mangiano, e non aspettano altro se non un'altra Pasqua per allestire un altro banchetto e banchettare fino alla fine dei tempi. Amen. I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Jesus Christ. Jesus Christ. Who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ. Jesus Christ. Who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ. Superstar. Do you think you're what they say you are? Sopra ogni cosa, Jesus nell'alto dei cieli, Jesus sul gradino più alto del podio, non c'è gara, non ha avversari, è l'unico candidato, una sola scheda, un solo nome, Jesus, turno secco, uninominale, con premio di maggioranza, voto sempre e sempre lui. Andate a vedere le schede, niente brogli, tutto alla luce del sole, nei secoli dei secoli, amen. Non mi interessa sapere se è stato un uomo o se è un'invenzione, se qualcun altro l'ha fatto padre della Chiesa suo malgrado, se qualcuno l'ha strumentalizzato e l'ha fatto Dio, se amava la Maddalena. Se invece era frigido, se preferiva gli uomini, se era un ebreo ortodosso o un riformatore, se era un dio o un profeta, un vero uomo, un vero dio. So che non ho mai conosciuto nessuno che possa prendere il suo posto, quindi lo lascio là, al suo posto, lo lascio inchiodato a una croce, inchiodata a un muro. Voglio che non scenda, che non venga a farmi la predica, a parlarmi, a interrogarmi, a chiedermi di seguirlo né di conoscerlo. Non voglio che venga a parlarmi. Voglio un Gesù archeologico, incartapecorito, defunto. Voglio un Gesù imbalsamato, imbavagliato, incarcerato. Voglio un Gesù deforme, informe, sgraziato. Voglio un Gesù in sapore, in colore, in odore. Voglio un Gesù mummia, un Gesù icona, un Gesù statico, decorativo, inchiodato a una croce, inchiodata a un muro. Voglio un Gesù buono, con gli occhi dolci, l'agnello in spalla e il cuore in mano. Voglio il paradiso, paradiso per tutti, paradiso subito. Chiudete il purgatorio e una volta chiuso, chiudete anche l'inferno. Spegnete il fuoco, non siate sadici, risparmiate legna e petrolio, risparmiate a Dio la fatica di inventare, impartire premi e castighi eterni. Voglio il paradiso, paradiso per tutti, paradiso subito. Non mettetevi nell'ottica del giudizio, troppe variabili, troppi errori possibili. L'umore del giudice, la sua rettitudine, come va con sua moglie, se i figli la notte gli hanno lasciato chiudere occhio. Voglio un Dio che non faccia esami. Voglio il paradiso, paradiso per tutti, paradiso subito. Non importa se a fianco avrò chi mi ha fregato in vita, chi mi ha voltato le spalle, chi mi ha fatto lo sgambetto, l'importante è il paradiso. Voglio tutelare la mia sfera privata. Voglio un Dio che mi aiuti a farlo. Un Dio creato a mia immagine e somiglianza. Dio è morto, Gesù è vecchio, è malato, non guaritelo, lasciatelo boccheggiare. Voglio un Gesù archeologico, incartapecorito, defunto. Voglio un Gesù incapace di risorgere. Voglio un Gesù personale. My personal Jesus! Nelle piccole chiese. Credo nelle chiese di pietra, le chiese in minuscolo. Credo nel loro silenzio, nel loro volume, nel loro isolamento. Credo nella loro penombra, nel loro suono, nella loro pace. Credo nelle chiese di pietra, nel loro essere mondo, dove il giorno resta fuori dalla porta e anche quando il sole è alto fa freddo. Dove la vita respira, dove ognuno è libero di trovare il suo centro, di scendere le scale per giungere nella cripta a lume di candela, di spegnere la fiamma, di chiudere gli occhi, di stare in ascolto, di piangere, di ridere, di gridare, di stracciarsi le vesti, di cacciare i mercanti, di porgere l'altra guancia, di perdersi e di ritrovarsi. Credo nelle chiese di pietra, nella loro capacità di attrarre e spaventare, di interrogarci sul tempo, sul senso, sull'enigma dell'uomo e del mondo. Credo nelle chiese di pietra, dove si pensa, si medita, ci si rigenera. Credo nel loro ruolo di tramite, nell'odore dell'incenso, nel profumo del sacro. Credo nelle chiese di pietra, credo nel mistero, nel dubbio, nel bisogno, nell'invocazione d'aiuto. Credo nelle chiese di pietra, credo nei loro affreschi, nelle loro pale, dove la favola della creazione emoziona, dove la favola di Adamo ed Eva è una storia illustrata con tanto di mela e serpente, dove la favola di Abramo, di Isacco e di Giacobbe vive insieme alle favole dei santi. Credo nelle chiese di pietra, credo in una vecchia piegata sulle ginocchia, credo nella sua paura e nella sua speranza, credo nella sua esperienza, credo nella candela che accende